Non tutte le sere arrivavo al ristorante di San Loup nella stessa disposizione d'animo. Se un ricordo o un dispiacere che ci affligge sono capaci di eclissarsi al punto che non li avvertiamo più, lo sono però anche di tornare, e a volte ci vuole un bel pezzo perché ci abbandonino. C'erano delle sere in cui, attraversando la città in direzione del ristorante, provavo un tale rimpianto di Madame de Guermantes che faticavo a respirare. Si sarebbe detto che una parte del mio petto fosse stata sezionata da un abile anatomista, asportata e sostituita con un identico ingombro di sofferenza immateriale, con un equivalente di nostalgia e d'amore. E, per quanto possano essere ben applicati i punti di sutura, si vive abbastanza penosamente quando il rimpianto di una persona si sostituisce alle viscere, dall'impressione di occupare più spazio di loro, si fa sentire ininterrottamente. E poi è talmente ambiguo essere costretti a pensare una parte del proprio corpo. L'unico vantaggio è che ci si illude di valere di più. Alla minima brezza si sospira d'oppressione, ma anche di languore. Guardavo il cielo. Se era terzo, pensavo, forse lei è in campagna. Guarda le stesse stelle e chissà che, appena arrivato al ristorante, Roberto mi dica: una buona notizia, mia zia mi ha scritto, vorrebbe vederti, sta per venire qui. Non era solo nel firmamento che proiettavo il pensiero di Madame de Guermantes. Un alito di vento un po' più dolce, passando, sembrava portarmi un suo messaggio, come un tempo attraverso i campi di Méséglise uno di Gilbert. Non cambiamo mai. Nel sentimento che proviamo per una persona accogliamo molti elementi assopiti che è lei a risvegliare, benché le siano estranei. E poi, questi sentimenti particolari, c'è sempre in noi qualcosa che si sforza di condurli a una verità superiore, vale a dire di incorporarli in un sentimento più generale, comune a tutta l'umanità, con cui gli individui e le sofferenze che ci provocano ci forniscono semplicemente un'occasione per comunicare. Se un po' di piacere si mischiava alla mia pena, era perché lo sapevo una particella dell'amore universale. Certo, da quel tanto delle tristezze patite per amore di Gilberto nelle sere di Combray, quando la mamma non si fermava nella mia camera, come anche dal ricordo di certe pagine di Bergotte che mi sembrava di riconoscere nella mia sofferenza, una sofferenza a cui Madame de Guermantes, la sua freddezza, la sua assenza, non erano collegate con la chiarezza che collega la causa all'effetto nella mente di uno scienziato, io non deducevo che Madame de Guermantes non fosse appunto tale causa. Non esistono forse dolori fisici diffusi che si estendono per irradiazione in zone esterne alla parte malata, ma che da queste si ritirano per dissolversi del tutto se un medico tocca il punto preciso da cui essi provengono? Eppure, prima, la loro estensione generava un senso di vaghezza e di fatalità tale che, impotenti a spiegarli e persino a localizzarli, credevamo impossibile guarirne. Mentre mi avvicinavo al ristorante mi dicevo: sono già 14 giorni che non vedo Madame de Guermantes. 14 giorni. Un'enormità solo per me che, quando si trattava di Madame de Guermantes, contavo il tempo a minuti. Non soltanto le stelle e la brezza, ormai, ma persino le divisioni aritmetiche del tempo, assumevano ai miei occhi un che di doloroso e di poetico. Ogni giorno, adesso, era come la cresta mobile di una collina incerta. Su un versante sentivo di poter scendere verso l'oblio. Sull'altro mi travolgeva il bisogno di rivedere la duchessa. Ed ero di volta in volta più vicino al primo o al secondo senza raggiungere un equilibrio stabile. Un giorno pensai: stasera forse ci sarà una lettera. E a pranzo trovai il coraggio di chiedere a Saint-Loup: Hai per caso notizie da Parigi? Sì, mi rispose con aria cupa. E sono cattive. Respirai di sollievo, rendendomi conto che i dispiaceri erano esclusivamente suoi e che le notizie riguardavano la sua amante. Ma subito dopo considerai che, tra varie altre conseguenze, per molto tempo avrebbero impedito a Robert di accompagnarmi da sua zia. Venni a sapere che fra lui e l'amante era scoppiato un litigio, o per corrispondenza, o che lei fosse venuta a trovarlo una mattina fra un treno e l'altro. E i litigi, anche meno gravi di questo, scoppiati in precedenza fra loro, erano sempre parsi insanabili. Di cattivo umore, lei batteva i piedi, piangeva, per ragioni incomprensibili quanto quelle dei bambini che si chiudono in uno stanzino buio, non vogliono mangiare, rifiutano qualsiasi spiegazione e non fanno che raddoppiare i singhiozzi quando, persa la pazienza, li prendiamo a ceffoni. Sellup soffrì atrocemente di quella rottura, ma è un modo di dire troppo scolorito, che non rende affatto l'idea di quel dolore. Rimasto solo, non avendo più da pensare che alla sua amante, la quale era ripartita piena di rispetto per lui dopo averlo visto così energico, gli stati d'ansia delle prime ore cessarono davanti all'irreparabile e la scomparsa dell'ansia è una cosa così dolce che la rottura, una volta che gli si rivelò come definitiva, assunse per lui un po' dello stesso fascino che avrebbe avuto una riconciliazione. Cominciò piuttosto a soffrire, un po' più tardi, di un dolore, una complicazione di carattere secondario, i cui flussi era lui stesso a produrre incessantemente. Vale a dire l'idea che lei, forse, avrebbe voluto un riavvicinamento. Ne era impossibile che stesse aspettando una sua parola, che nell'attesa, per vendicarsi, avrebbe forse fatto una certa sera, in un certo luogo, una certa cosa, e che sarebbe bastato telegrafarle che stava arrivando perché questa cosa non avvenisse. Che altri, forse, stavano approfittando del tempo che lui si lasciava sfuggire e che fra pochi giorni sarebbe stato troppo tardi per recuperarla perché qualcuno, intanto, se la sarebbe presa. Di tutte queste possibilità, Sellup era all'oscuro. La sua amante manteneva un silenzio che finì col rendere folle il suo dolore, tanto da fargli sospettare che lei fosse nascosta a Donsier o in viaggio verso le Indie. È stato detto che il silenzio è una forza. In un senso affatto diverso lo è e terribile nelle mani di coloro che amiamo. Il silenzio accresce l'ansia di chi aspetta. Niente ci attira verso una persona come ciò che ci separa da lei. E quale barriera è più insormontabile del silenzio? È stato detto anche che il silenzio è un supplizio, è capace di spingere alla follia chi in una prigione vi sia sottomesso. Ma che supplizio spaventoso, ben più che il doverlo serbare, è il doverlo subire da parte di chi si ama. Cosa starà facendo? Si chiedeva Robert, per tacere così. Non c'è dubbio, mi sta tradendo con un altro. E si chiedeva anche, che cosa le ho fatto perché ora taccia così? Forse mi odia e per sempre. E accusava se stesso. Il silenzio lo faceva impazzire in effetti di gelosia e di rimorso. Del resto, più crudele di quello delle prigioni, un silenzio siffatto è esso stesso una prigione. Una paratia immateriale, certo, ma impenetrabile. Questo strato d'atmosfera vuota che i raggi visivi dell'abbandonato non possono attraversare. C'è forse una luce più terribile del silenzio che ci fa vedere non un assente ma mille, ciascuna nell'atto di consumare un diverso tradimento? Quel silenzio, a volte, in un brusco soprassalto, Robert credeva che fosse lì lì per interrompersi, che la lettera attesa stesse per arrivare. La vedeva, eccola, spiava ogni rumore e già placato mormorava «La lettera! La lettera!». Dopo aver intravisto così un'immaginaria oasi di tenerezza, si ritrovava a trascinarsi nel deserto reale del silenzio senza fine. Soffriva in anticipo, senza tralasciarne nessuna, tutte le pene di una rottura che in altri momenti era convinto di poter evitare, come uno che sistema tutti i propri affari in vista di un espatrio che non si verificherà e il cui pensiero, non sapendo più dove dovrà situarsi domani, s'agita momentaneamente, staccato da lui, come un cuore che, strappato a un infermo, continui a battere, separato dal resto del corpo. In ogni caso, la speranza che l'amante tornasse gli dava il coraggio di perseverare nella rottura, così come la convinzione di poter uscire vivi da un combattimento aiuta ad affrontare la morte. E poiché l'abitudine è, fra tutte le piante umane, quella che ha meno bisogno di nutrimento dal suolo e la prima a spuntare sulla roccia apparentemente più desolata, forse Saint Loup, cominciando a praticare la rottura per finta, avrebbe finito con l'assuefarvisi sinceramente. Ma l'incertezza lo manteneva in uno stato che, vincolandosi al ricordo di quella donna, somigliava all'amore. Eppure si imponeva di non scriverle, pensando magari che fosse tormento meno crudele vivere senza di lei che non in certe condizioni con lei, oppure che, dato il modo in cui si erano lasciati, aspettare che si scusasse era indispensabile per non perdere quanto egli credeva sopravvivesse in lei, se non d'amore, perlomeno di stima e di rispetto nei suoi confronti. Si accontentava di andare al telefono che avevano appena installato a Doncier e chiedere notizie o dare istruzioni a una cameriera che le aveva messo accanto. Queste comunicazioni, peraltro, risultavano tanto più complicate e lo impegnavano tanto più a lungo, in quanto, adeguandosi alle opinioni dei suoi amici letterati circa la bruttezza della capitale, ma più ancora in considerazione dei suoi animali, i cani, la scimmia, i canarini, il pappagallo, i cui versi incessanti erano diventati intollerabili per il padrone di casa di Parigi, l'amante di Robert aveva preso in affitto una piccola proprietà nei dintorni di Versailles. Intanto lui, a Doncier, di notte non chiudeva più occhio. Una volta nella mia stanza, vinto dalla stanchezza, s'assopì un poco, ma d'improvviso si mise a parlare. Voleva correre, impedire qualcosa, diceva «Lo capisco, voi non...» Si svegliò. Mi raccontò di avere sognato che era in campagna, ospite del maresciallo d'alloggio. Questi aveva tentato di tenerlo alla larga da una certa parte della casa. Saint Loup aveva intuito che il maresciallo d'alloggio ospitava un tenente ricchissimo e vizioso, il quale, lo sapeva per certo, concupiva la sua amica. E tutto a un tratto, nel sogno, Saint Loup aveva distintamente udito i gridi intermittenti e regolari che sempre sfuggivano alla sua amante nei momenti di voluttà. Aveva cercato di costringere il maresciallo d'alloggio a guidarlo sino alla camera e questi lo tratteneva perché non ci andasse con una certa aurea offesa per tanta indiscrezione che Robert non avrebbe, mi disse, mai dimenticata. «Un sogno idiota», aggiunse, ancora tutto affannato. Ma nell'ora successiva lo vidi ripetutamente sul punto di telefonare all'amante per sollecitare una riconciliazione. Mio padre aveva da poco il telefono, ma non sapevo quanto la cosa potesse giovare a Saint Loup. D'altronde, non mi sembrava molto opportuno dare ai miei genitori, o anche soltanto a un apparecchio installato in casa loro, un ruolo intermediario fra Saint Loup e la sua amante, per quanto fine di nobili sentimenti potesse essere costei. L'incubo che aveva angosciato Saint Loup accennò a cancellarsi dalla sua mente. Venne a trovarmi, con lo sguardo fisso e distratto, in ciascuno di quei giorni atroci che disegnarono ai miei occhi, inseguendosi l'un l'altro, come la magnifica rampa di una scala duramente forgiata, sui cui gradini Robert continuava a domandarsi quale decisione avrebbe mai preso la sua amante. Finalmente, lei gli chiese di perdonarla. Non appena si rese conto che la rottura era stata evitata, Saint Loup vide tutti gli inconvenienti di una riconciliazione. Soffriva già meno, del resto, e aveva quasi accettato un dolore del quale, se la relazione fosse ricominciata, avrebbe dovuto, forse fra pochi mesi, risentirne il morso. Non esitò a lungo. E se esitò, lo fece forse solo perché era finalmente sicuro di poter riconquistare l'amante, sicuro di poterlo fare e dunque di farlo. Lei gli chiedeva soltanto di non tornare a Parigi il 1 gennaio per consentirle di ritrovare la calma. Ora, Saint-Loup non aveva il coraggio d'andare a Parigi senza incontrarla. D'altra parte, lei aveva consentito a fare un viaggio con lui, ma per questo gli occorreva un vero e proprio congedo e il capitano di Borodino non intendeva accordarglielo. «Mi dispiace, ma per la visita a mia zia dovremo rimandarla. Verrò sicuramente a Parigi per Pasqua». «In quel periodo, però, non potremo andare da Madame de Guermantes perché io sarò già a Balbec. Ma non ha importanza, davvero». «A Balbec? Ma c'eravate andato solo in agosto». «Sì, ma quest'anno, per via della salute, mi ci manderanno prima». Il suo timore era che, dopo tutto quello che mi aveva raccontato, giudicassi male la sua amante. «È violenta solo perché troppo franca, troppo integra nei sentimenti. Ma è una creatura sublime. Non puoi neanche immaginare le sue delicatezze poetiche. Ogni anno va a passare il giorno dei morti a Bruges. È giusto, non ti pare? Se mai vi conoscerete, vedrai, è grande». E siccome era imbevuto di un certo linguaggio che si parlava nei circoli letterari frequentati da quella donna, «ha qualcosa di siderale, addirittura di profetico, capisci quel che voglio dire? Il poeta che era come un sacerdote».